Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria sono presto detti: il vertice che si è concluso da circa mezz'ora, il vertice romano, anticipato, come molti di voi avranno letto, su richiesta anche di Angela Merkel, giustamente, c'era la partita, ci mancherebbe. E vertice che si è concluso con grandi dichiarazioni di intenti, adesso lo commenteremo, ascolteremo. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha detto appunto non c'è rigore sostenibile senza crescita. Angela Merkel ha detto lottiamo per mantenere l'euro come la nostra moneta, l'unione politica deve essere più forte. Hollande ha dato un pieno sostegno all'Italia sul piano anti-spread, di cui parleremo, e poi ha anche detto di essere favorevole alla Tobin Tax, e quindi è una tassa sulle transazioni finanziarie. La crescita è la priorità. E poi sempre Hollande ha detto attenzione, gli euro bond restano una prospettiva. Un ragionamento analogo anche da parte del premier spagnolo Rajoy, che ha detto insomma abbiamo scommesso tutti sul futuro dell'Europa, premeremo anche per la Tobin Tax. Detto ciò, qualche sgradevolezza arriva dalla stampa tedesca, adesso ne parleremo, il mitico Der Spiegel, che non manca mai di avere un atteggiamento nei confronti degli italiani, sempre con questa spocchia, vabbè. E ne parleremo, dice contro gli problemi italiani, contro i loro problemi gli italiani invocano mamma Merkel. Ringraziamo, ma le mamme le abbiamo anche in Italia, non c'è nessun problema. Però, detto ciò, non c'è stata, nel caso qualcuno l'avesse attesa, una reazione dei mercati così forte. Anzi, restano tutti incerti. Milano non è la peggiore, meno 0,17%, Parigi meno 0,60%, Francoforte meno 0,90%, Londra meno 0,80%. L'America guadagna lo 0,5% in questo momento, euro a quota 1,25,28%. Alcuni bancari vanno molto bene, poi c'è la vicenda Fondiera Assai di cui parleremo. Monte dei Paschi più 6,92, Popolare di Milano più 4,81, Mediobanca più 2,70, Enel più 2,30, A2A più 1,80, Ansaldo STS invece più 1,5, come Telecom Italia, l'1,30 lo guadagna Snam, Rete Gas, come Atlantia. Chi perde e anche tanto? Saipem meno 3,70, Fiat Industria meno 3,30, Salvatore Ferragamo meno 3, Tods meno 2,40, Mediolanum meno 2,20, Pirelli meno 2%, come Tenaris, Enel Green Power meno 1,90 come Impregilo. 349-238-6666 resta il numero per i vostri SMS. Parleremo oggi in una puntata volutamente un po' particolare sia del presente stretto, e cioè decisioni sull'euro, i 10 giorni, come le ha chiamati Mario Monti, che devono portare alla salvezza dell'euro. In realtà Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, e George Soros hanno detto comunque l'Europa ha 3 mesi. E vi annuncio che lunedì avremo un'iniziativa importante, Radio Daily, Radio 24, sulla calda estate dell'euro, mentre domani sul Sole 24 Ore uno speciale di 10 pagine per seguire la settimana decisiva dell'Europa. Salviamo l'euro, la roadmap per salvare l'euro, ma questo è il presente, cioè come ci ritroveremo a settembre. C'è poi un ragionamento che vorremmo fare oggi, approfittando del fatto che molti italiani, ce lo auguriamo, si spostino anche per le vacanze, per i weekend, e quindi ogni tanto si può anche cambiare tema, e cioè come andiamo a rimodellare questo modello produttivo una volta salvato l'euro, diciamo. Perché è chiaro a tutti che siamo arrivati in questa situazione dopo 20 anni di crescita ininterrotta, di finanziarizzazione spinta dell'economia, che ci ha portato quindi a sostituire al lavoro i consumi, ma se tu non lavori è difficile che tu abbia i consumi, a meno che non siano consumi a credito, solo che a forza di fare debiti grazie al credito al consumo, il giochetto, il castello di carte è poi esploso. Questa potrebbe essere una sintesi molto rapida e chiaramente insufficiente di quello che sono stati gli ultimi vent'anni. Allora, il lavoro in questo momento è nell'area asiatica, si sta spostando la parte produttiva nell'Asia, nei BRICS, Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, e continuerà a andare da quella parte lì. Qual è il modello di crescita che dobbiamo darci? Perché riproporre il modello che poi ci ha portato sul baratro non mi sembra una grandissima scelta. Di questo ragioneremo con chi ne ha appena scritto, e quindi qual è la nuova crescita che possiamo dare senza, e lo dico subito, immaginare come fa Latouche una decrescita. La decrescita non sarebbe gestibile. Latouche mi deve spiegare cosa si fa nel frattempo tra quando passi da una crescita a una decrescita, i milioni di disoccupati che crei, come li gestiamo se non con i militari in piazza. Altra cosa è dire che forse quel modello di crescita non era più sostenibile ed è per questo che è esploso, e ci può essere un altro modello di crescita. Cerchiamo di, senza diventare troppo pindarici, di tenere assieme i due temi: il presente dell'euro, per cui inizia un periodo difficilissimo, e il futuro della nostra crescita. 349-238-6666 per i vostri SMS. Sì, ha ragione un ascoltatore, bisogna stare attenti all'aria condizionata, gli anni passano, ha ragione, mi sono ammalato anche per questo, ma sto un po' meglio io dell'euro. Dai, mettiamola così, le notizie in breve. Poi c'è chi ci scrive su Disperati Mai. Non abbiamo dimenticato l'iniziativa, anzi vi anticipo che mercoledì prossimo il ministro Passera sarà nostro ospite per parlare proprio dell'iniziativa Disperati Mai. Resta attivo il numero e l'indirizzo mail per scrivere. Torneremo a leggere le lettere anche la prossima settimana che stanno arrivate. Abbiamo preso un po' di pausa per riaccorparle e gireremo le più significative proprio al ministro Passera, che appunto, salvo imprevisti dell'ultima ora, mercoledì sarà nostro ospite in apertura dalle 17 in poi. Per il resto, oro stabile, petrolio anch'esso stabile ma a $78 il barile a New York, benzina, nuovo weekend con la guerra degli sconti. Io devo dire che l'iniziativa dell'ENI è stata un'iniziativa che ha avuto un effetto virtuoso pazzesco, cioè ridurre di 20 centesimi la benzina nel weekend ha portato tutte le altre compagnie a fare, quasi tutte le altre, a fare lo stesso. Oggi Eni, che ha fissato i nuovi prezzi di benzina e diesel a 1,580 euro nella modalità iperself e 1,480 euro al litro, il diesel chiaramente, contro i precedenti 1,600 euro e 1,500 euro, ha portato anche Tamoil, per esempio, Shell, Total Erg a attuare iniziative simili, a dimostrazione che se c'è la concorrenza, è per questo che siamo a favore di tutte le liberalizzazioni, poi la concorrenza porta vantaggi per i consumatori. Non c'è stato l'effetto Moody's oggi sulle banche europee e soprattutto su quelle italiane. Ieri sera Moody's ha tagliato il voto, è l'agenzia di rating, una delle tre agenzie che danno i voti a stati e a soggetti privati, ha tagliato il voto a 15 grandi banche del mondo. Però oggi, ripeto, un effetto pesante non si è visto sul mercato. Anche Deutsche Bank ha avuto il giudizio passare da AA 3 a A2, a Barclays, Crédit Agricole, HSBC, e quindi tutto un insieme di banche sia dell'area euro che americane che svizzere. Però nel frattempo la Bundesbank critica le misure annunciate oggi dalla Banca Centrale Europea, cioè la Banca Centrale Tedesca, che ancora non si rassegna al fatto che non è più lei la Banca Centrale Europea, critica il fatto che la Banca Centrale Europea ha annunciato che allenterà le condizioni per i prestiti alle banche dell'area euro per continuare a sostenere l'economia dell'area. Ma i tedeschi non ci stanno e dicono non siamo d'accordo. Nel frattempo il nostro spread è calato oggi a 410 punti, anche quello spagnolo con la Germania è sceso sotto i 500 punti. Sono livelli ancora altissimi, come dire, sempre meglio di tre giorni fa. Io non so se da questo punto di vista la Germania voglia che tutti Tifino Grecia oggi. Adesso vi spiego perché. Noi abbiamo lanciato sulla pagina del programma di Facebook un sondaggio per chi tiferà Grecia e chi tiferà Germania. Per ora sono arrivati 170 voti circa, 120 tiferanno Grecia, 23 tiferanno Germania, 20 non ne può fregare di meno. E vabbè. Dico questo però perché adesso sto per leggervi che cosa ha scritto il Der Spiegel oggi degli italiani. Allora, il settimanale tedesco, da sempre molto critico con tutto ciò che è a sud, diciamo, del Reno o del Danubio, dice, c'è un articolo che si chiama Appello alla mamma e invita gli italiani a rompere finalmente il potere dei sindacati, fin qui va bene, per rilanciare la loro economia, invece di convincersi che solo la cancelliera Angela Merkel possa salvare il loro paese. Il columnist, che si chiama Jan Fleischauer, che già in passato se l'era presa con gli italiani, con il loro carattere nazionale, e era riuscito a paragonare quello che è successo con la Costa Concordia e con Schettino, dicendo che poteva capitare solo in Italia perché gli italiani sono fatti così. Complimenti, sarebbe come dire che tutti i tedeschi mangiano birra, bevono birra, mangiano krauti e hanno una tendenza così a governi monocratici. E continua Jan Fleischauer: se si vuole capire perché non si procede con il salvataggio dell'euro, bisogna guardare all'Italia. Tutti parlano della Spagna, ma è sugli italiani che si decide il destino dell'euro. Purtroppo sembra che la maggioranza degli italiani non sia consapevole della propria responsabilità. Allora, caro Han Fleischauer, io non so lei quante volte è venuto qua, ma le posso ricordare che questo paese da novembre in poi si è beccato la riforma delle pensioni. Cioè, abbiamo 120.000 esodati più altri che non sanno che fine faranno. Un aumento dell'imposizione fiscale, la riduzione, speriamo, della spesa pubblica con questa spending review. Stiamo tagliando il possibile e voglio dire, dire che gli italiani non si sono resi conto della situazione e sperano che arrivi mamma Merkel a salvarli. Io capisco che ogni scarafone è bella mamma sua, no? Ma vale anche il contrario. Allora, per favore, meno luoghi comuni. Non mi sembra che la Germania abbia bisogno di cattiva stampa in questo momento. Un applauso a tutti i tifosi pro Grecia che porterà l'articolo del Der Spiegel di oggi. Il che non vuol dire che da noi vada tutto bene, ci mancherebbe, né che non dobbiamo continuare a fare i compiti, ma che non si può pensare semplicemente di bacchettare gli altri mentre c'è un paese che si chiama Germania che ha tutti i vantaggi possibili dall'introduzione dell'euro, dalla situazione attuale, e si arricchisce senza tornare a spendere. Allora, no? Voglio dire. Comunque, il premier Mario Monti oggi ha detto non chiediamo aiuti, si è rivolto proprio ai tedeschi, e i tedeschi non stanno mantenendo un eccessivo tenore di vita degli italiani, anche perché quando vi leggerò il dato sulla fiducia dei consumatori, sull'andamento dei consumi in Italia, ma qual è l'eccessivo tenore di vita degli italiani adesso? Boh, della spesa pubblica, della politica, delle regioni, dei comuni, di quello che raccontiamo, sì, ma degli italiani in sé, ma dov'è questo eccessivo tenore di vita? Ma... Comunque, Monti ha detto servirebbe uno scivolo verso un mercato più sostenibile in termini di tassi di interesse. Detto ciò, noi abbiamo preparato la ballata dell'euro, che mi sembra la cosa migliore in questo momento per lanciare il primo tema, ossia il vertice di Roma. Dico subito che già il fatto che il vertice si sia tenuto a Roma, a mio avviso, visto il periodo da cui venivamo di cattiva stampa e terribile immagine, è già un successo avere Angela Merkel, François Hollande, Mariano Rajoy che vengono a Roma per ragionare di come prepararsi al Consiglio europeo del 27 giugno. Però regaliamogli allora questa ballata dell'euro. Vai. Thank you. Allora, alleggeriamo anche noi questo caldo eccessivo che sui paesi del sud Europa tende a esserci d'estate. Gerardo Pelosi, buonasera. Buonasera a voi. Oh, mamma mia, che tono. Che è successo? Hai parlato con la Merkel? No. No, anzi, clima mi sembra dei migliori. Oh, hai sentito la nostra ballata dell'euro? Sì, no. Sì, l'ho sentito. Ormai ci stiamo inventando qualunque cosa per arrivare al 27 giugno. Prima 28, sì, 27 l'inizio, poi il 28 è il giorno cruciale. Allora, so benissimo che il mio amico Oscar Giannino tifa per la Germania. Io, Oscar, siamo amici anche perché la pensiamo in maniera diversa. Su, non è che dovete ricordarmelo. Ogni volta... Non so se tiferà ancora per la Merkel che è uscita da questo incontro, che sembrava di sentire la Camusso. Perché? Perché è una Merkel inedita. Poi a parte che non è un'offesa, lo dico, perché non è un'offesa. No, però. Certo, ma è inedito comunque. Perché sentire la Merkel parlare della necessità di creare posti di lavoro dopo aver fatto tanto sul fiscal compact, sulla disciplina di bilancio, eccetera, è una novità per la Merkel. Politiche per la crescita, sulle quali le quattro più grandi economie dell'Europa si trovano d'accordo, l'1% del PIL comunitario messo in comune per creare posti di lavoro, 130 miliardi di euro. Beh, insomma, una novità, no? Sì, è una novità. Già ieri dicevamo che forse quello che è successo in Germania in questi quattro giorni, cioè l'indice ZEV che misura l'andamento della produzione industriale che è calato ed è andato a un livello non atteso, ai minimi da 3 anni, e anche l'indice PMI che è sceso a livello sotto il confine che separa la crescita economica dalla recessione economica. Forse questi scricchioli in Germania hanno fatto capire a Angela Merkel che se va avanti così, se continua a fermarsi il resto dell'Europa, dove loro esportano il 43% dei beni nell'area euro, il 60% nell'intera Europa, forse si ferma anche la Germania, che oggi tra l'altro come borsa perde l'1,22%. Quindi, prima nota che mettiamo in rubrica, Angela Merkel che sostanzialmente apre a possibilità di crescita, di utilizzare appunto l'1% sulla crescita. Sentiamo in primo luogo il Presidente del Consiglio Mario Monti proprio sull'accordo di mobilitare l'1% del PIL europeo, vuol dire circa 120 miliardi, 120-130 miliardi per misure per la crescita. E già comunque il fatto che si sia riusciti a ficcare in testa i tedeschi che serve anche la crescita, a mio avviso è un grandissimo risultato. Mario Monti. Al prossimo Consiglio europeo sosterremo una serie di azioni per rilanciare l'economia, gli investimenti, l'occupazione, aumentare la concorrenza in Europa, realizzare più pienamente il mercato unico europeo, che è un grande asset non ancora messo compiutamente a frutto. Noi desideriamo che ci sia un pacchetto di misure per la crescita a livello europeo rilevante, che sia dell'ordine di grandezza dell'1% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, il che significa più o meno 130 miliardi di euro. Stiamo anche lavorando perché dentro questa visione di pacchetto per la crescita ci sia anche una considerazione per la qualità, la composizione della spesa pubblica che riconosca il valore di certi investimenti. Abbiamo rinnovato l'impegno comune a rispettare una sana disciplina macroeconomica indispensabile alla stabilità e solidità di un sistema finanziario che sia in grado di sostenere gli investimenti per l'economia reale e la crescita dell'occupazione. Quindi, a mio avviso questo è un successo. Devo dare una risposta a Gerardo, però alcuni ascoltatori che dicono, cioè, l'Italia è il paese dei Guelfi, dei Ghibellini, per cui no, o sta da una parte o sta dall'altra. A mio avviso è sbagliato in questo momento essere manichei. Il rigore va messo assieme alla crescita, quindi noi dobbiamo continuare a fare i compiti a casa, cacciare i politici che sprecano. Raccontiamo quasi tutti i giorni con la rubrica "Ma cos'è questa crisi?" di come non solo Senato e Camera, ma le regioni, Regione Sicilia, Regione Friuli, Provincia Autonoma di Bolzano e Trento, abbiamo di tutto raccontato, di come si sprechino i soldi pubblici in questo paese e andrebbero cacciati, travolti. Non ho nessun problema a dirlo, ma un conto è pulire casa propria e un conto pensare poi alla gestione del condominio europeo. Si possono fare le due cose: pulisci casa tua ma gestisci anche il condominio. Sulla gestione del condominio, la linea tedesca del rigor mortis della Merkel non ha portato a niente se non a aumentare la spirale recessiva, cosa che gli americani ci ripetono quasi ogni giorno. Allora, chiuso questo appello a non diventare o pro Merkel o contro Merkel, ma diciamo a tenere assieme due cose, come l'hai trovata Angela Merkel, Gerardo? Beh, ti dicevo, è una Merkel inedita, che si rende conto delle necessità dell'Europa, forse anche convinta dal colloquio e dal dibattito che si è svolto allo Scabos, in quell'incontro che hanno avuto con Obama. Certo, il presidente americano ha l'esigenza di evitare il contagio, che il contagio arrivi sulle sponde, l'altra sponde dell'Atlantico, e che gli impedisca la rielezione al presidente degli Stati Uniti. Però anche la Merkel si rende conto che effettivamente qualche cosa va fatta in più. Devo dire che nel linguaggio, se come dire verba sunt consequentia rerum, ci sono degli aspetti interessanti anche sulla unione politica e su come si dovrebbe arrivare a questa unione politica dopo l'unione fiscale, l'unione bancaria e ovviamente l'unione economica. Ne ha parlato la Merkel dell'unione politica come ultimo approdo, ne ha parlato molto il premier spagnolo Rajoy, non ne ha parlato il presidente francese Hollande, e questo è significativo perché ha legato le cessioni di sovranità a maggiori impegni anche sul fronte della solidarietà. E Monti, e questo andrebbe indagato questo aspetto, alla fine ha parlato di qualcosa anche sull'unione politica. Ecco, sarebbe interessante capire che cosa ha voluto dire quel qualcosa. Ma soprattutto è la politica che riprende in mano le redini della situazione e dice ai mercati, alle banche: guardate che ci siamo anche noi. La Merkel ha spiegato bene il suo no all'utilizzo del fondo salva stati provvisorio per l'acquisto sul mercato secondario dei titoli dei paesi cosiddetti paesi periferici. Lei ha detto: lo Stato spagnolo deve poter dire alle sue banche cosa devono cambiare. Se io concedo denaro al sistema bancario iberico, non ho il potere di dire nulla perché sono il cancelliere tedesco e non ho nessuna autorità in Spagna. In questo ha ragione, cioè, bisogna stare attenti anche a un effetto in qualche modo placebo, perché le banche spagnole poi devono essere anche responsabilizzate dalla loro classe politica, non certo da soldi tedeschi. E un'altra novità, se mi dai un secondo, è la Tobin Tax, la tassazione sulle transazioni finanziarie, che sicuramente non piacerà ad altri paesi, non piace sicuramente al Regno Unito, però le quattro più grandi economie dell'Europa si trovano d'accordo nel tassare le transazioni finanziarie. E di questo arriviamo dopo il meteo e la pubblicità. Commenti. Allora, scrive un ascoltatore: se l'Italia è in macerie non è colpa dei nostri politici di M, mafiosi e sperperoni, ma della Merkel. Siete comici. No, guardi, questa è una cosa che non abbiamo mai detto, anche perché non avremo la rubrica su come la nostra classe politica spreca lo sprecabile e le regioni del sud non riescono neanche a utilizzare i 45 miliardi di euro che l'Europa ha destinato, che scadranno al 31 dicembre, perché non sanno scrivere i progetti di sviluppo e hanno 20.000 dipendenti in Sicilia, per citarne una. Lo ricordiamo tutti i giorni, ma si può tenere assieme in un programma, in un'analisi, la critica, l'autocritica a questo paese da un lato, e però anche la critica come l'Europa ha gestito la crisi, pensando che si risolvesse solo tagliando stipendi, aumentando le tasse, alzando l'età pensionabile, senza un euro per politiche di sviluppo, senza poter stampare gli euro come fa qualunque banca centrale che può stampare moneta senza garantire le banche del vecchio continente come fa qualunque banca centrale, cioè usando solo il modello tedesco che va bene in Germania ma non va bene in altre parti d'Europa? Secondo me sì, si può fare autocritica e criticare anche fuori. Allora, torniamo con la nostra ballata dell'euro. Molti dicono, ma perché non aggiungete altre musiche oltre a Sirtaki e Flamenco, la Tarantella e Beethoven con la nona? Speriamo di no, speriamo di non aggiungere più nessuna musica. Gerardo Pelosi, a fine conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Monti è stato molto, così... quasi subdolo, oserei dire, perché ha ricordato che i primi paesi a non rispettare i vincoli di Maastricht, i vincoli, diciamo, sul deficit, sul debito, sono stati a suo tempo, 2004 se non ricordo male, proprio la Germania, oltre che la Francia. 2003. Con la complicità dell'Italia. Della presidenza italiana, certo. Deragliarono. Non è la prima volta che Monti fa questa osservazione. L'ha fatta, devo dire, anche nella prima riunione alla quale fu invitato a Strasburgo nel novembre dell'anno scorso con Sarkozy e la Merkel. Lo disse lì, lo disse in situazioni successive. Oggi lo ha detto da padrone di casa e quindi questo forse può aggiungere un valore eccessivo alle sue parole. Ma soprattutto la Merkel annuiva, sì è vero, ha detto noi in quell'occasione abbiamo deragliato dal patto di stabilità, ecco la necessità adesso di darsi le regole e rispettarle. Ho capito, però siccome io ho bottato la macchina adesso spiego a tutti come si fa a guidare. Stiamo buoni su questo, perché in realtà cosa capitò, tu hai ragione, nel 2003 e capitò che la presidenza italiana, lo raccontammo allora in diretta a Focus Economia, e il ministro Tremonti, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, fecero un ragionamento, cioè autorizzarono a sospendere le sanzioni contro Francia e Germania, esatto. Convinti in questo modo che se fosse toccato all'Italia vi sarebbe stato analogo trattamento. Allora, è chiaro che nel momento in cui tu nel passato hai sforato Maastricht non puoi arrivare qua come una bella verginella o come una demi-vierge, una mezza vergine. Come dicono i francesi, la verginità non è un problema di centimetri. Abbiate pazienza. Chiedo scusa e mi correggo subito invece, perché ho sparato una grossa cavolata. Abbiamo usato un insieme di sigle, di stacchi, di canzoni, di basi per la nostra ballata dell'euro, tra cui la quinta di Beethoven, non la nona. E chiedo venia su questo errore gravissimo. Invece andiamo avanti, perché sentiamo qual è stata la posizione di Hollande, perché Mario Monti continua a giocare un ruolo quasi di pontiere tra Francia e Germania, ci si è infilato in mezzo bene e gli fa comodo utilizzarlo. Abbiamo visto un po' più defilata la Spagna, ma questo ritratto, diciamo, lo lascio poi alle tue valutazioni. Hollande chiedere comunque che si arrivi a una Tobin tax, una tassa sulle transazioni finanziarie, anche senza l'ok della Gran Bretagna. Ci siamo anche trovati d'accordo su una visione comune dell'Unione economica e monetaria, su una roadmap che presuppone per ciascuna tappa dell'Unione, Unione monetaria, Unione bancaria, strumenti equivalenti e corrispondenti a questa volontà di lavorare insieme. Terzo obiettivo è di fare in modo di utilizzare al meglio tutti i meccanismi che attualmente esistono per stabilizzare i mercati, per dare fiducia e per lottare contro la speculazione. Quindi il Consiglio europeo, se raggiungiamo questi obiettivi, può rappresentare una tappa importante per l'Europa. Possiamo aggiungervi, e io continuerò a lavorare in questa direzione, e penso che qui ci sia stata una buona reazione alla tassa sulle transazioni finanziarie. Allora, Gerardo Pelosi, a te il compito del ritratto, perché insomma Rajoy si è mostrato un po' più defilato, era quasi stato invitato come solidarietà da Mario Monti, ma era chiaramente in questo momento l'ospite più debole. La Spagna ha appena avuto un piano di salvataggio molto contestato per le modalità, anche oggi la Bundesbank, ma la stessa Angela Merkel si sono dette contrarie, come tu ricordavi, a un aiuto diretto sulle banche spagnole. Ma insomma, dammi un ritratto. Mario Monti faceva il padrone di casa, abbiamo visto. Angela Merkel l'hai ben descritta, e cioè ha aperto, forse capisce che arrivare alle elezioni in Germania con questa linea del rigore, con una Germania che sta frenando, non è il massimo. Hollande e Rajoy. Ma Rajoy sicuramente debole, come tu dici, ma anche molto dignitoso, come sanno essere assolutamente gli spagnoli anche nei momenti di difficoltà. Rajoy, secondo Rajoy, il fondo salva stati FSF ha tutte le carte in regola per acquistare sul mercato secondario i titoli di questi paesi periferici, e quindi può diciamo rappresentare un'ancora di salvataggio, a differenza di quello che pensa la Merkel. Poi certo la difesa dell'euro, la irreversibilità dell'euro, ha detto Rajoy, e quindi questo è l'aspetto fondamentale. La maggiore integrazione finanziaria, unione bancaria, secondo un decalage, un timing che ancora non è previsto, ma che il 28 dovrà essere chiaro, anche da Rompuy e Barroso stanno lavorando a questo, e quindi bisogna capire effettivamente la tempistica, se è il 2015 l'unione bancaria, il 2020 l'unione politica o quant'altro. E Hollande, mi dici. Hollande, certo, un passaggio nuovo, una personalità assolutamente diversa rispetto a quella di Sarkozy, è un uomo di sinistra, è un uomo che però è anche un francese, quindi il nazionalismo è fortemente incardinato nel suo DNA, però ha detto che è pronto a dare e cedere pezzi di sovranità a Bruxelles, sistemi di regolazione sovranazionali, a fronte però di diciamo offerte di solidarietà. Allora, per concludere, poi passiamo alla borsa, visto che ci sono gli europei, stasera c'è Germania-Grecia, devo dire che la stragrande maggioranza dei nostri, di chi ci segue su Facebook, sta votando a favore della Grecia, ma non vuol dire nulla. È un punto è stato segnato in questo vertice, in vista poi del 28 e 29, 27 sera, 28 e 29, o no? Sicuramente sì. Ecco. Anche se le più grandi, le quattro economie d'Europa, non sono tutte l'Europa, non sono tutta l'Eurozona, innanzitutto i 17, e non sono tutta l'Europa. Vabbè, però è meglio essere in quattro che essere dominati da quattro che da uno, no? Bisognerà costruire il consenso. Questa è una buona base di partenza per costruire il consenso. Sulla partita ti volevo dire, speriamo che non sia come l'Italia e Germania 3, che è diventata un cult. No, descrive con molta dolcezza un po' di Life Day una signora sulla pagina Facebook, e magari finirà 1-1. No signora, non può finire 1-1 perché è un'eliminazione diretta, lo so che tutti vorremmo, ma è un'eliminazione diretta. Mentre quello che non è un'eliminazione diretta, non deve diventarlo, è l'euro. A nostro avviso, se salta un paese, salta l'intera baracca. Comunque, grazie Gerardo Pelosi. Alla fine Milano cede lo 0,65%, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 1,30%, Francoforte penalizzata dai dati che ricordavo in apertura, fiducia delle imprese in netto calo, indice PMI in netto calo, indice ZEW in netto calo, cioè in Germania, e sarò malizioso forse, questo è il motivo per cui oggi Angela Merkel era più morbida e si è deciso di destinare l'1% del PIL europeo alla crescita, anche in Germania arrivano segnali di un rallentamento dell'economia. Ma guarda un po'. Per quello che riguarda Milano, Mali oggi petroliferi, il petrolio è a $78 al barile, Saipem meno 4%, ma non solo, Eni meno 1,60%, in generale deboli gli energetici, gli industriali, il settore lusso, Salvatore Ferragamo meno 3,90%, Fiat Industrial meno 3,60%, Tod's meno 2,60% come Mediolanum, Tenaris meno 2,40% come in pregilo, il 2% l'ha perso ST Microelectronics, ma anche Prysmian e Pirelli e Finmeccanica. Chi ha guadagnato? Alcune banche, alla faccia di Moody's, Monte dei Paschi più 6,23%, Popolare di Milano più 3,50%, Mediobanca più 2,50%, Enel più 1,80%, A2A più 1,20%, Atlantia più 1,14% come Telecom Italia, Ansaldo e STS. Migliori e peggiori, e vengo al tema più importante di questa giornata, PMS meno 11,80%, Borgosese meno 9% da un lato, dall'altro invece abbiamo Meridiana Fly più 12,14%, Stefanel più 8,24%. Oggi però è stata la giornata anche importantissima per il titolo Unipol. Bene, il titolo adesso ne parleremo, però prima di tutto mi collego con Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore. Buonasera Riccardo. Salve. Allora, oggi Unipol ha diffuso i dati di cosa nascerà, diciamo le stime di cosa nascerà dalla fusione con Fondiera SAI. A te l'analisi e il commento. Ma insomma non ci sono grandissime novità rispetto a quelle che conoscevamo, nel senso che già un mese e mezzo fa loro avevano presentato i dati dell'aggregato che sarebbe nato. Le novità, diciamo così, sono nel fatto che hanno dato un maggior livello di dettaglio sui premi che cederanno per effetto della sentenza dell'antitrust, e saranno consistenti, saranno 1,7 miliardi di premi, insomma. I crediti che rimborseranno a Mediobanca, che sembrerebbe l'istituzione che maggiormente guadagna da questa operazione, visto che non perde i suoi crediti e per giunta glieli rimborsano anche. E poi ha avuto cimbri, appunto, è apparso molto determinato, un po' ostioso nei confronti delle critiche che gli sono venute in questi giorni sulla effettiva valenza del suo progetto industriale. Un po' incerto sul da farsi anche sulla questione della malleva. Voi sapete che c'è questa questione legata all'esonero dell'OPA da parte della Consob, l'Unipol aveva contrattato questa malleva con Premafin a favore di tutti gli azionisti del gruppo con cui si va a fondere, sì. La Consob invece ha chiesto di elevarla per esatto, e comunque Cimbri si è detto fiducioso, caro Cimbri dell'amministratore delegato di Unipol, che non vi sarà nessuna offerta pubblica di acquisto, cioè fiducioso sull'esenzione dell'OPA nei confronti di Milano Assicurazioni. Il titolo Unipol ha guadagnato l'1,2%. Grazie Riccardo Sabatini. Vorrei adesso, come avevamo anticipato, alternare una visione, un racconto di brevissimo periodo, cioè i prossimi 10 giorni, 10 giorni cruciali dell'euro, l'estate calda dell'euro, come racconteremo anche lunedì nel nostro Radio Day, e quindi quello che è la gestione del presente, dell'immediato presente, alternandolo però anche a un'analisi con un respiro un po' più ampio. È chiaro a tutti infatti che gestire l'emergenza euro è la priorità, dopodiché non possiamo immaginare che, ammesso e non concesso che si salverà l'euro e che la gestione avrà successo, che questi 4 anni ormai di crisi, per non parlare poi del 2013, non rappresentino un cambiamento strutturale, un cambiamento di modello. Allora, priorità è salvare la casa europea, la casa dell'euro, però poi anche ragionare sui modelli, perché la situazione in cui siamo finiti e siamo piombati, quindi crisi finanziaria che poi diventa crisi economica, che poi diventa crisi occupazionale, che poi diventa crisi dei consumi, pongono degli interrogativi su quello che è il futuro nel modello di sviluppo, senza voler parlare di decrescita, che a noi sembra una follia, ma insomma siamo arrivati in questo frangente dopo 10, 12, anche 20 anni di crescita continua, di finanziarizzazione dell'economia, di bisogni indotti, di un'economia misurata tutta sull'aumento dei consumi, e dove i consumi hanno preso il posto quanto a valore rispetto al lavoro, cioè l'economia del post seconda guerra mondiale era un'economia che si basava ponendo al centro il tema del lavoro. Dagli anni, fine anni 80 in poi, abbiamo posto al centro il tema dei consumi, e poi siamo arrivati a una società che consumava più di quello che produceva, più di quello che otteneva dal suo lavoro, e da lì il credito della finanza, la bolla creditizia, i mutui subprime, la vita che si compra a prestito e l'esplosione di questa bolla, per essere molto sintetici. Lo dico perché oggi abbiamo una notizia di cronaca che riguarda la fiducia dei consumatori italiani. A giugno è calata ai minimi dal 1996, ossia da quando inizia la serie storica, da quando la misuriamo. Non sappiamo se sia ai minimi dagli anni 70. Il che vuol dire che, nonostante i tentativi politici di trovare una barriera antincendio per l'euro, il consumatore italiano ritiene che questa situazione durerà ancora a lungo, euro o non euro. Ne voglio parlare con il professor Mauro Magatti, che è preside della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Nostro ospite già altre volte, e che lei insegna sociologia della globalizzazione e ha scritto da pochi giorni un libro che si chiama La grande contrazione, i fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto. Infatti la cosa che mi piace di questo libro, casa editrice Feltrinelli, è che esiste anche una proposta, non solo una critica, ma una proposta su nuovi modelli. Innanzitutto vediamo di capire, con questo passaggio, da dove veniamo, e quindi che cosa intendiamo con il tema di grande contrazione. È un tema che dobbiamo all'economista americano Kenneth Rogoff. Riprendendo l'espressione usata da Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, parlo di grande contrazione. Il ridimensionamento del carico debitorio che le economie dei paesi avanzati dovranno in qualche modo gestire nei prossimi anni non è solo una perdita, un passo indietro, ma anche e soprattutto un'occasione per fare un passo avanti nella storia della libertà. Prodromi di un parto che arrivi, nel giro di qualche anno, a far nascere un nuovo modello di sviluppo, capace di far tesoro di quello che la crisi ci insegna, i pesanti costi umani e i sacrifici necessari che occorrerà sobbarcarsi in questi anni potranno essere più agevolmente sostenuti. Un nuovo modello di sviluppo che la crisi, se letta in maniera opportuna, non solo sollecita, ma persino indica. Se, come credo, tra qualche anno si tornerà a crescere, la crescita sarà di nuova generazione. Non una mera espansione quantitativa, ma un'eccedenza qualitativa capace di mettere meglio a frutto la ricchezza principale di cui dispongono, potenzialmente almeno, le democrazie avanzate. E cioè la ricchezza umana e spirituale che solo un mondo di liberi può sprigionare. Ma per far questo occorre curare la radicalizzazione dell'individualismo di cui sono malate le società occidentali, attraverso il potenziamento di forme diffuse di socialità, di alleanza e di contribuzione. Per questo non si tratta di tornare indietro, di ristabilire il disordine istituito che c'era prima della crisi. Un tale obiettivo non è solo impossibile, ma non è nemmeno auspicabile. Si tratta invece di procedere oltre, di fare un passo avanti nella storia della libertà. Allora, professor Magatti, insomma, lei dice anche quando torneremo a crescere non possiamo più immaginare una crescita come quella che ci ha portato poi all'esplosione della bolla finanziaria, in cui per mantenere i consumi che non eravamo più in grado di mantenere perché la produzione si è spostata da altre parti, abbiamo fatto ricorso alla finanza agevolata, al credito agevolato, con tutto ciò che poi ha comportato. Che cos'è il tecnonichilismo da cui arriviamo? Sì, sembra una parola difficile, ma è molto semplice. Noi abbiamo attraversato 30 anni straordinari, c'è stata una grandissima espansione planetaria, no? L'abbiamo chiamato globalizzazione, e questa espansione si è basata sulla centralità della tecnica, dei sistemi tecnici. Faccio sempre questo esempio: nel 2006, prima della crisi, volavano al mese 200 milioni di persone. Che non so se ci rendiamo conto cosa vuol dire tenere per aria 200 milioni di persone al mese, e tutto questo era possibile grazie a un grande sistema tecnico del trasporto aereo mondiale, e così era la finanza, è stato un grande apparato tecnico che ha permesso una crescita che ha lasciato dei problemi, ma anche è stata una crescita fantastica. Ecco, questo è il lato tecnico. Il lato nichilistico, perché avendo spezzato le appartenenze nazionali, le tradizioni culturali locali, abbiamo messo tutto in un calderone, e sul piano dei significati tutto si è sciolto nella singola opinione. quando tutta opinione naturalmente diventa difficile mettersi d'accordo su qualunque cosa. Questo è stato un modello molto importante, che è molto diverso dal modello che dal 45 ci ha portato agli anni 70. La crisi termina questa stagione, bene o male, e dobbiamo adesso guardare avanti, non guardare indietro. Ecco, su questo vorrei essere molto chiaro. Non è che si stia criticando un modello che ha comunque permesso a intere parti dell'Europa e dell'Italia dagli anni 70 in poi di acquisire ricchezza, eh? Qui si sta dicendo, se ho ben capito, che siccome questo modello poi è arrivato col fiato corto ed è esploso, perché non ci si stava più dietro, che quando torneremo a crescere bisognerà approntare e avere anche un altro modello di crescita e non di decrescita. E poi arrivo anche al tema. Lei ricorda, come aveva già fatto una volta il nostro ospite, che l'eccesso, tra virgolette, di individualismo, cioè conti solo tu sei unico, la pubblicità ci ha bombardato per 30 anni, che se la schiuma da barba, il profumo, la giacca ti rendeva unico, diverso dagli altri. Ecco, quando devi affrontare il mare in tempesta è meglio che tu ti metta tutti assieme, perché se poi la barca affonda, affonda per tutti. Quindi anche ribaltare il concetto dell'individuo che è unico, diverso, monade rispetto agli altri, per un individuo che parte di una collettività. Dopo il traffico vorrei arrivare a questo secondo aspetto, cercando di capire perché lei non ritiene che si possa parlare di decrescita, ma invece si possa parlare di una neoconsumatore più sobrio e più parte di un gruppo. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Magatti, chiarito da dove veniamo e che bisognerà, per non ricadere in questi errori, un po' come la vita, no? Uno non può fare l'adolescente a vita. È una fase bella, però poi la superi, ci sono altre fasi che comunque devi affrontare cercando di fare in modo che non siano fasi solo negative. Lei individua nel neoconsumatore un consumatore che non è un neopovero, ma è un neosobrio. Allora le chiedo intanto che cos'è questo consumatore neosobrio e perché lei non condivide l'approccio che piace molto a alcuni ascoltatori di Latouche, di Sergio Latouche, che parla di decrescita, cioè di un mondo che deve iniziare a decrescere invece che a crescere. Sì, io penso che la decrescita sia una parola sbagliata, semplicemente perché la crescita non l'ha inventato, diciamo così, qualcuno di malevolo. È una proiezione verso il futuro che gli uomini hanno fin dall'antichità e che la modernità poi ha incarnato anche nell'aspetto economico. Dunque questa cosa va qualificata, non va ristretta o ridotta. E io parlo di neoconsumatore perché già ci sono parecchi sintomi e la crisi li sta accentuando, che anche dal lato del consumo abbiamo capito che semplicemente consumare di più e consumare beni, diciamo, che si esauriscono in un attimo, dopo 30 anni di questo modello abbiamo capito l'effetto che fa e forse cerchiamo altri effetti. La qualità della nostra vita, il nostro star bene dipendono ad esempio dalla qualità ambientale, dal fatto che non c'è il traffico per le strade, dal fatto che la scuola dei nostri figli funziona bene o via discorrendo. Ma poi parlo anche di neoproduttore, perché la trasformazione tocca il consumo ma tocca anche la produzione. Oggi anche in Italia ci sono moltissime imprese, moltissimi imprenditori che considerano il profitto veramente una misura della loro efficienza, ma fanno quel mestiere per, come dire, fare qualcosa di bello nella vita. Io credo che le economie mature, le società mature hanno superato la stagione del riempimento quantitativo della loro vita e cercano anche un'espressione un po' più alta, diciamo così. E questo semplicemente perché siamo società ricche, non società povere, e questo non dovremmo dimenticarlo. Quindi la neosobrietà non è una neopovertà, non è che tu decresci, ma ristabilisci le tue priorità, vai a comprare, e lo vediamo nel settore biologico, ma anche nell'elettronica, tablets, iPad e quant'altro, vai a comprare quegli oggetti che ti danno un grosso valore aggiunto, per esempio sulla salute, per esempio perché ti mettono in rete, in comunicazione, e posticipi o rimandi o banalmente cancelli alcuni acquisti, per esempio i beni durevoli. Vediamo che lì sul settore auto, ma non solo, c'è un continuo rimando dell'acquisto, e anche tutti quei prodotti che, invecchiando rapidamente, diventando fuori moda, ti obbligavano a questa rincorsa continua per stare al passo coi tempi. La neosobrietà, se mi passa il termine, se ne frega un po' dello stare al passo coi tempi e va più sui valori, se ho ben sì, possiamo intendere anche questa crisi come una crisi di valore, nel senso che il valore finanziario abbiamo capito che poteva andare all'infinito, ma sotto non c'era niente. Il secolo scorso la grande recessione ci aveva insegnato una cosa importante, che alla fine la crescita economica, per essere solida, si basa sulla crescita delle persone e delle comunità, delle società. Ce ne siamo dimenticati per un periodo, come diceva lei, adolescenziale, niente di male. Adesso però la crisi ci sta dicendo che se non ricomponiamo lo sviluppo personale e sociale alla crescita economica, è difficile pensare al futuro per le società avanzate in un mondo che intanto è cambiato. Questo è importante. Io parlo di seconda globalizzazione rispetto a quella di 20 anni fa, dove nel mondo ci sono tanti attori, c'è molta più contrattazione tra i poteri politici, e già questo segna una differenza importante. Ecco, vorrei chiudere proprio con il potere politico, perché lei citava giustamente il fatto che ci siano già imprenditori che sono neoproduttori, che sì, usano il profitto per capire come va l'azienda, per misurare l'efficienza dell'azienda, ma in realtà hanno un obiettivo anche diverso. Molti di questi sono venuti anche ospiti a Focus Economia, cioè danno un valore in più che semplicemente l'utile, il ROE, l'EBITDA e la trimestrale. La finanziarizzazione classica dell'economia degli ultimi 20 anni, in cui contava solo la borsa e la trimestrale e il bonus al manager, tutto giocato sul breve brevissimo termine. Però manca un soggetto in questa analisi, ed è il soggetto politico. La nostra impressione in questo momento è che, vedi anche il vertice di oggi, quello del 27 giugno, la politica stia affannosamente ricorrendo i nuovi mostri, i nuovi demoni, cercando di abbatterli, ma non riesca mai a dettare lei una qualche forma di agenda. Mi sembra che per arrivare a un neoconsumatore, a un neoproduttore, a una società che non ricompie gli stessi errori, che sì cresce, ma cresce assieme, non come singolo individuo bombardato di messaggi per cui tu sei unico, non sei simile agli altri, vai avanti tu e chi se ne frega gli altri. Ecco, ci voglia anche un'iniziativa di carattere politico. No, assolutamente sì. Non dimentichiamo che questa stagione che è alle nostre spalle è nata anche da un'idea politica, da una grande idea politica che fu il neoliberismo anglosassone. E oggi quello che cerchiamo certamente è un'altra grande idea politica, che io credo, la descrivo così, sopravviveranno quei territori e quelle comunità che nel grande mare della globalizzazione saranno capaci di scrivere nuove forme di alleanza, dove l'alleanza consiste nel mescolare le risorse che ci sono, nell'utilizzare al meglio le risorse che si hanno a disposizione e nel sapere che l'alleanza significa stare in rapporto al mondo intero, e quindi, come dire, non si tratta di guardarsi in faccia, ma si tratta di avere qualche cosa da offrire al mondo. Ecco, se pensiamo all'Italia, vediamo che questo tipo di politica proprio non ce l'abbiamo. Sì, io non penso che sia un problema solo italiano, però sicuramente anche italiano. Una cosa volevo chiederle però, andando poi a concretizzare in maniera molto, molto pratica, quando lei dice che dobbiamo riscoprire i valori con cui stare assieme, perché per 20 anni ci sono stati spiegati solo i valori singoli, individuali, io sono d'accordo, facevo l'esempio della barca, si può fare anche l'esempio di Tuareg, che quando attraversano il deserto stanno assieme, perché sennò da solo muori nel deserto, assieme dividi compiti e responsabilità. Però questo vuol dire poi concretamente anche per il mondo delle imprese la necessità di non ragionare solo come l'impresa accanto è mia concorrente, ma dobbiamo tenere assieme un tessuto sociale, quindi anche le imprese devono cercare di, tra virgolette, allearsi, stare in rete? Ma le vie saranno diverse e si tratterà poi di tracciarle queste vie, però insisto sul punto, non si dà crescita economica solida laddove non cresce anche la società e dentro la società laddove non crescono le persone. Questa lezione è chiarissima. Se guardiamo anche la Germania, che si trova che arriva a questo appuntamento in maniera un po' diversa dagli altri paesi, ricordiamo però che 10 anni fa la Germania era appunto considerata la grande malata. E la Germania arriva qui perché ha avuto un grande progetto politico, un grande progetto dell'unificazione. E questo è quello che è mancato ad altri paesi, cioè alla fine le energie umane, la capacità di risolvere i problemi, la voglia di fare, nasce dall'iniziativa personale, ma nasce anche da un discorso poi comune e dallo stare dentro a un progetto più ampio, che è il tema dell'Europa oggi. Il tema dell'Europa oggi è far nascere un'unità politica, ma anche dire che cosa l'Europa vuole essere nel mondo. Se non riusciamo a fare questo salto, chiaramente l'Europa rischia veramente grosso. Ecco, secondo lei, per concludere, nell'errore di un o nell'eccesso di un iperindividualismo tutto giocato su una parte finanziaria, è ricaduto anche l'euro, cioè il fatto di aver fatto un'Europa solo basata sulla finanza, sui conti pubblici e sulla moneta,